4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata amici di Quattro Ruote e Dintorni, bentornati al programma di motori di Radio 24 in collaborazione con il mensile Quattro Ruote. Puntata davvero ricca, la Porsche ha presentato sulle strade, quindi con prova dinamica, la Panamera che dal prossimo lunedì, quindi fra pochissimo, sarà disponibile per le prove su strada anche per i clienti o potenziali tali. La Panamera è la prima auto a quattro porte, quattro posti Porsche, siamo andati a provarla in Alta Marca, proprio a nord della sede italiana di Porsche. Insomma, ne avremo di belle, di cotte, di crude da raccontarvi insieme a Carlo Di Giusto di Quattro Ruote, che è già in linea. Caro Carlo, buonasera e bentornato. Buonasera a tutti, buonasera Roberto. Non solo porschista di lungo corso, amante davvero del brand tedesco, ma anche autore, se non sbaglio, un paio d'anni fa del libro monotematico, vero, che avete fatto su Porsche? Sì, nella collana Passione Auto ho scritto appunto il libro che riguarda la Porsche. E quindi, insomma, la conosci proprio bene. Sentiremo la voce di Mauro Gentile, che è il PR Manager di Porsche Italia, di Marco Do di Michelin, che ha studiato qualche modifica al Sport Pilot, il pneumatico che monta di serie Porsche Panamera, e poi ci occuperemo del salone di Francoforte insieme a Giampiero Bottino, con un'anteprima, perché il responsabile delle pagine motori del Sole 24 Ore verrà a parlarci da una parte di novità che troveremo nel salone, che è forse il più importante al mondo, e dall'altra di un'uscita sul Sole 24 Ore che sarà una specie di una sorta di speciale dedicato a Francoforte. E poi chiuderemo con la Formula 1, non si può non parlarne ovviamente. Giancarlo Fisichella attesissimo a Monza questo weekend da migliaia di fan. Iniziamo allora con Carlo Di Giusto, faccio fare a te una breve introduzione di questo che è davvero un modello nuovo, e una volta tanto nuovo lo è davvero per Porsche. Sì, è un modello nuovo, come hai detto tu, ma è un modello che alla Porsche hanno sempre sognato. Una Porsche berlina a quattro porte è sempre stata una sorta di ricorrenza storica nella storia progettuale della casa tedesca. Finalmente ce l'hanno fatta, e devo dire che ero molto scettico quando l'ho vista in fotografia, poi quando me la sono ritrovata davanti dal vivo ho dovuto ammettere, veramente bella. Addirittura poi parleremo tanto di guida, visto che l'abbiamo entrambi guidata un po' in anteprima, come succede ai giornalisti. Cercheremo di riportare le emozioni positive, se c'è qualche difetto lo diremo altrettanto chiaramente. Adesso sentiamo allora la voce di Mauro Gentile, vi dicevo il responsabile delle pubbliche relazioni di Porsche Italia. Gli abbiamo chiesto di presentarvi in anteprima la Porsche Panamera. Beh, il miglior modo per approcciarla è proprio andare a vederla, perché è una nuova Porsche. E il concetto di nuova Porsche vuol dire che è una nuova entrata nella famiglia Porsche, con tutte le caratteristiche tipiche della Porsche dal punto di vista del DNA stilistico e del design. È una vettura a quattro porte, quattro posti, è sicuramente l'auto che idealmente viene regalata per il centesimo compleanno di Ferri Porsche, visto che il 19 settembre sarà proprio la ricorrenza dei 100 anni della nascita di Ferri Porsche, e che aveva nella propria filosofia quella di costruire le vetture che non c'erano, cioè guardandosi attorno diceva: non c'è l'auto dei miei sogni, me la vado a costruire. E in questo caso il sogno nel cassetto del professor Porsche l'ha tirato fuori chi? Il centro stile di Porsche di Weiss, che insieme agli ingegneri che hanno introdotto questa nuova Porsche quattro porte, quattro posti. Senti, inutile negarlo, chi vuole fare un'auto confortevole deve farla lunga e larga. Fare un'auto lunga e larga vuol dire farla pesare tanto, e allora sono uscite tante Gran Turismo che di sportivo hanno poco. Qui la Porsche promette, forse per la prima volta realmente sul mercato, di dare il comfort tipico di una berlina di lusso, però mantenendo la tradizione sportiva della Porsche. Ci fai capire come questo sia possibile? L'impressione è innanzitutto dal punto di vista psicologico. Quando io mi siedo alla guida di un'automobile devo percepire immediatamente, qua dentro l'abitacolo, che sono la guida di una vettura sportiva, e in questo sono riusciti non solo dal punto di vista del motore, dal punto di vista dell'estetica, quindi il design esteriore, a ricollegarsi agli stilemi classici della sportività e quindi anche della coupé tipica Porsche, ma allo stesso vengono rivissute queste emozioni nel momento stesso in cui si posiziona all'interno del sedile di guida o anche nei sedili passeggero, e quando ci si mette proprio a toccare il volante. Vetro inclinato, posizione, la stessa posizione di guida che c'è nella 911, e poi poi c'è il motore, e ci sono le caratteristiche della vettura, la risposta pronta dell'acceleratore e la possibilità di parametrare a seconda delle esigenze il proprio piacere, quindi dal comfort allo sport plus per chi ama delle prestazioni molto simili a quelle che si vivono sul circuito. Ci saranno tre versioni, la Panamera S, chiamiamola base anche se è già equipaggiatissima, la 4S che ha la trazione integrale tipica Porsche e poi una Turbo. Significa tre target diversi per voi, così ci racconti anche a chi è dedicata questa Porsche. Non dimentichiamo che non esisteva in casa Porsche un'auto, un modello come questa, quindi ti chiedo se esiste anche una sorta di ipotesi cannibalizzazione all'interno dei modelli Porsche, oppure se prevedete un target esterno da rubare a BMW, a Audi, a Maserati. La risposta migliore la darà il cliente che si avvicinerà a noi. È chiaro che il cliente che è appunto di riferimento di questa automobile è un cliente che ha, che vive il rapporto con la stessa automobile col desiderio di coniugare l'idea di sportività, di utilità e flessibilità d'uso, quindi un bagagliaio, in questo caso ampio, perché è un bagagliaio ampio, confortevolezza per poter viaggiare con quattro persone in maniera tranquilla, perché si può viaggiare a una velocità, soprattutto dove è possibile, dove non ci sono dei limiti, una velocità importante senza percepire fastidi e poter parlare liberamente con le persone con le quali condividere questa esperienza, e dall'altra sono persone che amano anche un rapporto diretto con l'automobile, che quindi possono preferire una guida decisamente più sportiva, più guidata, cioè il piacere di affrontare una curva senza nessun problema, di sentire un rollio eccessivo perché la macchina è di grandi dimensioni. Io direi che questa è una vettura che non va a cannibalizzare nessuna di quelle all'interno della nostra gamma, perché la Cayenne è un fuoristrada sportivo, mentre la 911 è una vettura snella con una caratterizzazione davvero sportiva e anche spartana per certi versi. Qui andiamo a coprire invece l'esigenza di chi vuole una vettura sportiva di ampie dimensioni per poter fare viaggi e non solo con la sportività e un ambiente tra virgolette più semplice che pesa poco, ma con un ambiente più consono anche al piacere degli spazi che si vogliono vivere, quindi un ambiente confortevole e anche lussuoso. Parliamo di prezzi e anche di conseguenza di target. C'è un'entrata sui 98.000 per la S, si arriva, sono sempre prezzi base anche se già molto accessoriati, ma da qui si sale, potete immaginarlo, con optional di tutti i tipi, 130-132.000 per il turbo a salire. Sono prezzi importanti. Mauro, ci fai capire allora che tipi di obiettivi corporate ha Porsche Italia e la produzione invece mondiale? Secondo quanto dichiarato Porsche, l'intenzione è di produrre a regime, quindi quando ci saranno tutte le Panamera in linea, quando ci sarà tutta la produzione ai massimi livelli, e la produzione avviene a Lipsia, nello stabilimento di Lipsia, è di venderne 20.000 in tutto il mondo. Per l'Italia, anche qui a regime, quindi dal momento dell'introduzione, settembre di quest'anno a settembre del prossimo anno, se non addirittura a dicembre del prossimo anno, di arrivare a un migliaio di pezzi da consegnare. E questa è una notizia, un target. Ringraziamo Mauro Gentile, PR Manager di Porsche Italia. Carlo Di Giusto, iniziamo da qui, poi torniamo sulla vettura. Qualcuno può pensare 1.000 pezzi, beh insomma si accontentano di poco. In realtà 1.000 pezzi di una vettura che costa più di 100.000 euro sono numeri. Sì, sono numeri piuttosto elevati per il nostro paese, e considerando anche che per la Porsche 1.000 macchine in più sono un aumento delle vendite consistente, anche solo nel nostro paese. Decisamente. Io pensavo che la Maserati 4 porte in qualche modo fosse la concorrente ideale per quanto riguardava questa Porsche Panamera. Mi hanno suggerito invece che loro guardano di più all'Audi S8, per esempio a un Mercedes AMG, piuttosto che la nuova Serie 7. Quattro, ruote e dintorni. Siamo scesi da pochissimo dalla Porsche Panamera, la prima auto a quattro porte e quattro posti di cui stiamo parlando oggi, prodotta dal marchio tedesco. Ci crede tanto, a tal punto che la notizia è un migliaio di pezzi venduti in Italia nell'arco di un anno. Questo è il target che si pone Porsche, un target, abbiamo detto, decisamente ambizioso, e 20.000 pezzi invece in un anno in tutto il mondo. Dicevo dei concorrenti. Carlo, sei d'accordo sul fatto che sia più un Audi S8, un AMG, piuttosto che la nuova serie 7 BMW a essere il competitor ideale di Porsche invece della Maserati quattro porte? Beh sì, dal punto di vista della Porsche è ovvio, loro tentano di misurarsi con i migliori dal punto di vista commerciale. Audi S8, BMW serie 7 e le Mercedes AMG sono vetture che nel mondo fanno numeri consistenti, molto alti, e loro vogliono vendere le macchine e vogliono venderne tante, quindi loro vanno a colpire proprio in quel segmento. Lo abbiamo promesso, parliamo di guida. Allora, mi fa piacere sentire il tuo parere, appunto come porschista, ma come grande conoscitore del marchio tedesco. Tu hai avuto l'impressione, come Porsche promette, di trovarti a bordo di una coupé lunga però 5 metri e che tiene 4 persone. Loro lo chiamano l'abitacolo, tra l'altro con 4 posti guida, perché dietro ci sono sedili indipendenti. Sì, io faccio, parlando della Panamera, faccio sempre questo discorso. Mettiamo a un estremo la 911, che è l'icona della produzione Porsche. Dall'altro estremo ci mettiamo la Cayenne, che è questo fuoristrada sportivo. La Panamera sta al centro, un pochino più spostata verso la 911, in termini di appagamento di guida. Questo perché? Perché è pesante come una Cayenne, però è bassa, è larga e ha più il sapore della coupé che della berlina, della giardinetta, della SUV che può avere invece la Cayenne. L'ho guidata per 1500 km. Ah, però, quindi la conosci bene, eh? Sì, e tra l'altro l'ho guidata anche su una strada meravigliosa che è quella del Grossglockner. Sono 2500 metri di dislivello con 36 tornanti, una strada meravigliosa dove vanno a provare le macchine i costruttori proprio prima di metterle in commercio. E lì è venuta fuori una Porsche vera, una Porsche come te l'aspetti, cioè un'automobile che sa darti delle belle emozioni quando hai voglia e puoi diciamo spingerti un pochino più veloce della natura normale, ma che sa appagarti anche andando piano. Secondo me è una caratteristica fondamentale che devono avere tutte le automobili, in particolare quelle sportive. Sì, su questo sono d'accordo. Aggiungo uno sterzo che mi ha colpito, davvero sensibilissimo, e poi la parametratura con il pacchetto Sport e Sport Plus, che davvero ti consegna un'auto completamente diversa. Questo è utile per chi viaggia, per esempio, con una o due persone dietro, con i bagagli, e poi magari va a farsi il giretto da soli. Chiudiamo con un paio di dati. La Panamera è lunga 4,97 m, è alta, pensate, solo 1,42 m, questa è la più bassa nel suo settore, è larga 1,93 m, il motore lo conosciamo, è un 4800 centimetri cubi con 8 cilindri AV ed eroga 400 cavalli nella S e 4S, ben 500 cavalli nella versione turbo. Io mi prendo sempre la briga, Carlo, tu lo sai, di parlare di rapporto peso-potenza, vedo che ancora nessuno lo fa, ma è quello che conta. 4,5 kg spinti da ogni cavallo per la versione da 400 cavalli, ma attenzione ai 3,94 kg spinti da ogni chilo, da ogni cavallo per la turbo. Siamo a livelli davvero di top car e si parla invece di una berlina. Allora, grazie davvero a Carlo Di Giusto, a presto e buona serata. Grazie a te e un saluto a tutti. Chiudiamo con Marco Do, direttore comunicazione di Michelin Italia, che ci ha raccontato che cosa hanno fatto esattamente per la Panamera, visto che monta i Michelin Sport Pilot 2, ma un po' diversi da quelli di serie. La storia tra le due aziende è una collaborazione che inizia negli anni 60 informalmente e formalizzata poi con un accordo nel 2002. Questa lunghissima collaborazione evidentemente ha permesso di sviluppare prodotti in comune e soprattutto sviluppare uno pneumatico apposta per la Panamera. È stato sviluppato nella fattispecie il Pilot Sport 2, con caratteristiche che rispondessero alle caratteristiche che ci ha chiesto che avesse Porsche, le caratteristiche di questa vettura che sono uniche, che unisce quindi altissime prestazioni sportive al comfort e le esigenze di riduzione del rotolamento per ridurre le emissioni di CO2. Resistenza che ha un'incidenza percentuale incredibile se si guarda tutta la vettura. Pochi sanno che gli pneumatici intervengono per quanta percentuale esattamente? Questo è in generale il 20% delle forze che si oppongono all'avanzamento delle vetture, e il 20% di queste forze dipende dalla resistenza di rotolamento offerta dagli pneumatici. Ecco che intervenire per ridurre questa resistenza al rotolamento contribuisce non poco a ridurre le emissioni di CO2. Ricordiamo che Michelin lavora sulla resistenza al rotolamento dal 1992. Che caratteristiche doveva avere questo pneumatico al di là del Pilot Sport che già esisteva? Cioè, che cosa avete aggiunto, cosa avete tolto o che cosa avete modificato? Allora, per quanto riguarda il pneumatico estivo, quindi Pilot Sport 2, la caratteristica sono caratteristiche di modificazioni strutturali che devono rispondere appunto a esigenze di sicurezza ad altissime prestazioni, di altissimo comfort, di durata e di riduzione di emissioni di CO2. Per quanto riguarda l'invernale, sono state richieste le stesse caratteristiche sul pneumatico invernale, il Pilot Sport Alpine, e per poter soddisfare queste richieste è stato disegnato un nuovo battistrada. Battistrada che tiene in conto la direzionalità e soprattutto, caratteristica molto tecnica, una particolare scolpitura delle lamelle per evitare il cosiddetto effetto gel, quindi la stabilità del tassello in inverno ad altissime velocità permette di mantenere la stabilità della vettura. Credo possa essere anche curioso raccontare agli ascoltatori come avviene la fase di testing di uno pneumatico prima che venga lanciato sul mercato, figuriamoci se si parla di un pneumatico come questo adatto ad una vettura non solo comfort e lusso ma sempre Porsche, sempre sportiva. Il Pilot Sport, nella fattispecie, ha subito dei test molto severi, è stato fatto girare per un'ora e mezza a 300 km orari con un picco di 20 minuti a 350 km orari. Mi piace anche ricordare che questo prodotto è il pneumatico in commercio campione di velocità perché è stato capace di andare a oltre 400 km orari. Marco, lo ripetiamo, tu che ci segui in trasmissione da tempo, ogni anno all'inizio dell'autunno, quindi ottobre-novembre, con l'arrivo in alcune zone già del freddo, alcuni consigli per l'utilizzo del pneumatico invernale, perché è così importante durante la stagione fredda? Beh, intanto bisogna ricordare che tu dici molto bene pneumatico invernale, perché lo pneumatico invernale non è soltanto lo pneumatico da neve, stagione fredda, perché quando la temperatura dell'atmosfera scende al di sotto dei 7 gradi è importante avere pneumatici con caratteristiche differenti che possano quindi dare le stesse prestazioni in termini di aderenza, di sicurezza, di resistenza al rotolamento e di tenuta anche a basse temperature. Sono pneumatici fatti e studiati in modo diverso da quelli che hanno le stesse prestazioni a temperature più elevate. Allora, questa era la voce di Marco Do, direttore della comunicazione di Michelin, e con questo chiudiamo la prova della Porsche Panamera, una postilla ai 400 e i 350 km orari. Per 20 minuti ovviamente li hanno fatti con una Bugatti che sapete raggiunge i 400 km orari ed è con quella che hanno fatto il record del mondo. Questo era per fare una precisazione. Bene, troverete tutto su Porsche.it oppure su Radio24.it con le voci che avete sentito riascoltabili da lunedì pomeriggio. Chiusa la prova della Porsche Panamera, ci occupiamo adesso, a cavallo fra questo blocco e il prossimo, l'ultimo della nostra trasmissione, del Salone di Francoforte. È in arrivo per il pubblico dal 17 al 27, i giornalisti andranno qualche giorno prima per le anteprima e abbiamo Giampiero Bottino, il responsabile delle pagine motori del Sole 24 Ore. Caro Giampiero, intanto buonasera e bentornato. Buonasera. Allora Giampiero, ci fai capire perché è così importante? Il Salone di Francoforte ha assunto questa importanza a livello mondiale? Beh, il Salone di Francoforte è storicamente importante, prima di tutto perché è il salone di casa per alcuni dei brand più prestigiosi, più importanti e più grandi del mondo anche in termini numerici. Basti pensare che Volkswagen non nasconde l'ambizione di superare Toyota nell'arco di 10 anni e di diventare il primo costruttore, il primo gruppo automobilistico al mondo. Parliamo di BMW, parliamo di Mercedes, parliamo di Porsche. Insomma, i produttori di casa sono talmente importanti che diventano addirittura un po' invadenti e lasciano spesso agli ospiti stranieri degli angolini meno prestigiosi in termini di visibilità espositiva. Perché il pubblico non lo sa, ma ci sono battaglie in corso sulla visibilità negli stand, e potete immaginarlo, significa essere nel punto giusto dove magari passano decine di migliaia di persone in più, e questo vuol dire vendite in più, ovviamente. Assolutamente. Senti, allora parliamo di modelli. Che cosa vedremo o cosa non vedremo se non ci andremo a Francoforte? Così ci dai qualche pillola di saggezza. Per quanto riguarda le novità di prodotto, vedremo di tutto di più. Ci sarà tanta ecologia, tante proposte elettriche, tante proposte ibride, tante proposte con motori, quelli che si chiamano i clean diesel o blue diesel, motori ad alta efficienza. Le novità più importanti sono, direi, la Opel Astra come modello di grandi volumi, la classe E nuova Mercedes in versione station wagon, arriverà la Golf station wagon, che però da noi non è mai stato un modello di particolare appeal. Ci saranno, ripeto, tantissime novità che indirizzeranno un po', risponderanno a questa tendenza verso automobili più piccole, più compatte e meno nocive nei confronti dell'ambiente. E quindi più pulite. Quattro ruote e dintorni. Stiamo dunque parlando del Salone di Francoforte, imminente la sua apertura per il pubblico dal 17 al 27 settembre in Germania, nel caso voleste fare una pazzia in giornata o farvi magari un bel weekend per scoprire anche il territorio tedesco. Con noi Giampiero Bottino del Sole 24 Ore ci sta facendo capire, Giampiero dimmi se ho compreso bene, che ancora una volta ambiente, elettrico, emissioni saranno le parole chiave di un salone da una parte, poi parleremo del lato B. Assolutamente, perché sono diventate ormai le parole chiave del mondo dell'automobile e dell'auto del futuro. Le aziende che vogliono sopravvivere alla bufera dovranno puntare per forza sulle auto aziendali Obama, Dixit, e credo che anche i governi europei non possano fare a meno di sostenere questa politica. Assolutamente, grandi sostentamenti proprio finanziari per quelle aziende che per prime raggiungeranno i risultati anche nella battaglia per il litio, pensiamo per esempio all'elettrico. A questo proposito Renault è una delle case che vuole fare bella figura a livello mondiale e ha dichiarato che dal 2012 addirittura ci saranno tutta una serie di modelli elettrici, ma so che per quanto riguarda l'elettrico a Francoforte ne sentiremo di belle. Ma assolutamente sì, e soprattutto non solo di belle ma di vicine, perché si parla del 2010-2011 per il debutto commerciale di molte proposte come la Mercedes Blue Zero, come le quattro vetture che Carlos Ghosn, presidente dell'alleanza Renault-Nissan, annuncerà al Salone di Francoforte. Saranno quattro modelli di massa e non di nicchia, specifici, nati per funzionare col motore elettrico. Ci siamo quindi, Giampiero, secondo te si può dire che sulle nostre strade circoleranno definitivamente da 2010, diciamo 2011, veicoli elettrici? Ecco, non correrei così. Io direi che sulle nostre strade bisognerà aspettare almeno una decina d'anni. Questi modelli cominceranno a girare in flotte parasperimentali su mercati molto più contenuti per valutare anche le possibilità di ricarica pubblica, la gestione delle batterie, senza contare che prima che i modelli elettrici possano diventare veramente competitivi, perché non dimentichiamoci che l'ecologia, se non fa rima con economia, fa poca strada nella mente dei consumatori, bisognerà lavorare ancora molto sull'efficienza e soprattutto sul costo e sul peso delle batterie agli ioni di litio. Certo, perché significa autonomia, quindi è chiaro che finché l'autonomia è 60-80 km si va poco lontano. Assolutamente, e soprattutto se quando per fare un pieno ci metti dalle 3 alle 8 ore diventa un pochino poco competitivo. Complicato. Per cui si sta lavorando anche su questo, ma ci vorrà del tempo. Quindi hai citato l'asse ovviamente Renault-Nissan, e poi quali altre novità? Ma Peugeot per esempio ha annunciato proprio da poco che presenterà la sua prima vettura elettrica, che si chiama Ion. Ci sarà la Mercedes Blue Zero, che vedremo, è un concetto molto interessante perché è polivalente, può essere un'elettrica pura, può essere un'elettrica range extended, cioè un ibrido con il motore a benzina che serve solo per ricaricare le batterie e non per trasmettere motricità alle ruote, e sarà anche potrà essere anche a fuel cell a idrogeno in un futuro. È un modello molto interessante, la cui prima versione sarà sul mercato dall'anno prossimo, sempre però sperimentalmente. Sperimentalmente, è giusto che sia così. Parliamo anche di italiani. Di italiani, gruppo Fiat, come si muove a Francoforte? Il gruppo Fiat ha scelto la strada della concretezza, la difesa dell'ambiente, non tanto enfatizzando quello che ci sarà tra 10 anni, ma quello che ci può essere già da domani, anzi da oggi direi, perché da questo mese arriva in commercio la Fiat Mito, l'Alfa Mito, chiedo scusa, equipaggiata con il motore multi-air, che rappresenta il nuovo passo, un passo importantissimo dello sviluppo tecnologico del gruppo di Torino. È un motore che consente di abbinare, e avendo provato la Mito lo possiamo dire, delle prestazioni veramente da appassionati della guida sportiva, con dei risparmi in consumi ed emissioni che vanno dal 15 al 25%, quindi un risultato straordinario. E sarà il multi-air il protagonista degli stand del Lingotto a Francoforte, sia nel cofano della Mito sia nel cofano della Punto Evo, che sarà la nuova versione, la nuova generazione, diciamo, della grande Punto. E certo, l'alter ego per chi con la sportività preferisce il marchio Fiat invece che Alfa in questo caso. Senti, non solo però concretezza, non solo auto per il domani elettrico, ma diciamoci la verità, Giampiero, la gente vuole andare ai saloni anche per sognare, perché spesso in alcuni centinaia di metri quadrati riesce a vedere auto che invece nei concessionari non trova. Beh, diciamo che, anzi, soprattutto questo, la gente, ovviamente chi va ai saloni dell'auto è appassionato e vuole soprattutto sognare, guardando magari quelle vetture che non potrà mai permettersi di acquistare, ma potrà vedere appunto soltanto toccare, sederci sopra nei saloni. E in questo caso un po' le novità non mancano di certo. Partendo da alcuni marchi nobilissimi non italiani, poi concludiamo dulcis in fundo con gli italiani, per esempio esordisce la nuova Rolls Royce Lagon, esordisce l'Aston Martin Rapid, che è un po' un alter ego della Porsche Panamera, cioè la prima Aston Martin berlina quattro porte. Ma le novità più affascinanti, quelle che polarizzeranno l'attenzione dei visitatori, sono tutte e tre targate Italia. Cominciamo dalla Ferrari 458 Italia, bellissima, disegnata da Pininfarina, 470 cavalli, con oltretutto degli enormi risparmi rispetto alle generazioni precedenti in termini di emissioni di CO2, che è da non sottolineare. Ci sarà un altro capolavoro di Pininfarina, che è la Maserati Gran Cabrio, una vettura a mio parere stupenda, bellissima. E poi l'altra grande novità italiana, seppure con il cervello, i centri decisionali a Ingolstadt, è la Lamborghini, che propone la Reventon Roadster, cioè la versione a cielo aperto della sua vetturetta, della sua city car da 1.200.000 euro. Auto incredibile che abbiamo visto a Bologna l'anno scorso. Il 22 settembre è un giorno che vorrei che segnaste sulla vostra agenda, perché il Sole 24 Ore pubblica un allegato importante che si va a inserire proprio a metà salone, che è non solo l'anticipazione di tutti i prodotti, ma anche un vero resoconto di quello che è già avvenuto, vero? Esattamente, cercheremo di fare del nostro meglio per dare un resoconto completo. Ve lo ricorderemo anche sabato prossimo. Per ora grazie davvero a Giampiero Bottino del Sole 24 Ore, a presto e buon lavoro Giampiero. Grazie e buonasera a tutti. E passiamo, chiudendo ora la trasmissione, con Emilio De Leidi alla Formula 1. Formula 1 non potevamo non parlarne, lo sapete, perché domani c'è un appuntamento, insomma, fondamentale già di per sé nel calendario, perché Monza è il circuito più amato del mondo. Ma per di più, questa volta, domani in gara ci sarà Giancarlo Fisichella, amatissimo da tanti fan, ma vestito di rosso. Caro Emilio, buonasera e bentornato. Eccomi, hai ragione Roberto, una delle gare forse più attese della stagione, intanto perché è l'ultima gara europea, perché le ultime quattro, è vero, si corrono in posti sperduti che vanno da Singapore ad Abu Dhabi e così via, quindi anche magari con orari un po' meno gradevoli per noi spettatori europei. E poi c'è un campionato del mondo apertissimo, non dimentichiamolo, sì. Con diversi piloti. In teoria ci sono in palio 50 punti per i 5 vincitori, e quindi paradossalmente persino Raikkonen, che teoricamente sembra tagliato fuori, matematicamente, dalla matematica non è vero, sappiamo che può succedere di tutto. Noi Noi non parliamo ovviamente della gara di domani, perché poi i pronostici lasciano un po' il tempo che trovano, ma parliamo soprattutto di Giancarlo Fisichella. La fine della sua carriera ha avuto una grande soddisfazione, quella intanto di guidare una Ferrari, ma di diventare pilota ufficiale per gli ultimi 5 Gran Premi, grazie alla sua esperienza, con un'auto che ha avuto un travaglio negli ultimi 60 giorni incredibile. Il povero Felipe Massa, che sta recuperando alla grande, non tornerà se non nel 2010. Michael Schumacher ha fatto sognare tutti, dicendo poi di no perché il collo non regge. Luca Badoer, con grande soddisfazione personale, è andato a guidarla per 2 Gran Premi e devo dire che non ha ottenuto nessun tipo di risultato. Adesso Giancarlo avrà tanta pressione, Emilio, immagino. Ma guarda, sicuramente la pressione c'è, però Giancarlo è un professionista con tanti anni di esperienza sulle spalle e è un finale di carriera il suo dolce amaro, nel senso che è una bellissima ciliegina sulla torta, ma che se fosse arrivata prima avrebbe potuto dare una svolta diversa alla sua esperienza professionale in Formula 1. Quindi siamo tutti contenti come tifosi italiani vedere tanti anni dopo Ivan Cappelli e Michele Alboreto un altro connazionale sulla rossa. È peccato che questa opportunità arrivi per un pilota che sicuramente ormai è a fine carriera, quindi se anche dovesse l'anno prossimo avere un posto in squadra sicuramente non sarà da titolare, questo è abbastanza evidente. C'è Alonso, c'è il dilemma Raikkonen, c'è il dubbio, certo Massa, hai detto, tornerà sicuramente, però in che forma sarà? Probabilmente sarà sicuramente ai massimi livelli, ma non guiderà una Formula 1 da qui a febbraio e quindi avrà bisogno di tempo per recuperare anche la sua perfetta sintonia con la vettura. Anche questo è vero, anche perché sappiamo che i test diminuiscono sempre di più e quindi si possono guidare poche volte queste vetture. Però ti chiedo, hai già nominato almeno 4 nomi e a meno che non ci siano sorprese, le auto Ferrari domani saranno sempre 2. Allora Raikkonen, Alonso, Felipe Massa, tu hai messo dentro anche il buon Fisichella, ma cosa succederà di questo mercato? È davvero congelato? Il mercato della Formula 1 in questo momento è estremamente complesso, perché ricordiamoci che c'è anche un team che è importantissimo, che è la BMW, che ha annunciato il suo ritiro, e 2 piloti, almeno uno dei quali sicuramente di primo piano come Kubica, ma anche Heidfeld, che sono sul mercato. Non si sa ancora se Sauber troverà i soldi per andare avanti, non si sa ancora se le squadre che sono state ammesse come la US F1, cioè la prossima squadra americana, avranno effettivamente le risorse per scendere in Lizza. È una Formula 1 con grandi nubi dovute alla situazione economica generale, che si sta impegnando per fare dei grossi tagli di budget, ma che comunque richiede delle risorse economiche non del tutto indifferenti. Questo però porta anche a delle prospettive di interesse, perché veramente può succedere di tutto, sia nella fine di questo campionato che nella definizione delle squadre per il prossimo. In Belgio abbiamo visto l'ultimo Gran Premio, tanti sorpassi intanto, e poi alcuni piloti insospettabili davanti. È vero che questo dipende spesso dalla macchina, sappiamo che in Formula 1 l'auto conta tantissimo, una percentuale ben superiore al 60-70%, però sicuramente dietro c'è l'uomo che in certi circuiti può azzardare un pochino di più. Mentre il penultimo Gran Premio, ve lo ricordate, Valencia, bellissimo, spettacolare dal punto di vista aereo, in pista è stata una noia incredibile. Mi sembra di capire che tutti chiedano circuiti sempre più simili alle vere piste e un po' meno a quelle cittadine. Ma guarda, hai centrato perfettamente il problema della Formula 1. Da un lato la necessità di andare là dove ci sono i soldi, Singapore, Abu Dhabi, Dubai, Valencia, perché ha questa opportunità di un circuito cittadino, ma dove in realtà le piste sono un po' artificiose e dove i piloti non trovano quel challenge che crea poi la grande motivazione. Dall'altro ci sono delle piste storiche come Spa, ma anche come Silverstone, come Monza stessa, come un tempo c'era Imola, dove il pilota deve tirar fuori tutta la sua grinta. In questo caso si vede la differenza, perché pensate, Spa per esempio è una pista dove Raikkonen ha vinto un sacco di volte, 4-5 volte, e dove ha dimostrato di essere ancora quel grande pilota che sa essere quando è motivato e quando si trova nelle condizioni giuste dopo una stagione che molti hanno definito opaca, giustamente, dopo molte prestazioni mediocre. Quindi purtroppo gli interessi economici e quelli veramente puramente sportivi e agonistici non coincidono. Quando invece prevale l'aspetto sportivo, si vedono delle gare belle come quella di Spa. Che fanno bene a tutti, alla Formula 1 e a noi spettatori. Allora domani ore 14 pronti su Sky o su Rai 1 per la partenza del Gran Premio di Monza. Grazie Emilio De Leidi, a prestissimo e buon lavoro. Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Con la voce di Emilio De Leidi termina anche la nostra trasmissione, che torna però puntuale sabato prossimo alle ore 21 per tenervi compagnia. Tre quarti d'ora interamente dedicati al mondo dei motori. www.radio24.it e 4ruote@radio24.it. A presto, grazie da Peter in regia e da Roberto Rasia al microfono. Buona guida.